Chi c'è qua? Oh, Carlo, beh, com'è la serata? Un po' lunga qua, un po' pallosa. Ah, quindi hai risolto parzialmente, dai, parzialmente. Hai seguito una delle misure indicate. Altino quanto? Ma quando hai detto un pochino alto, intendevi il ROS, le stazionarie? Cavolo, per un'antenna del genere. Strano, te l'ho detto, io con un cavo casuale avevo massimo 1,2. Ma mutato in terrazzino nell'angolo, quindi c'avevi un po' di muretto un po' a ridosso ed era attaccato a un porta asciugamani metallico, sai quelli che metti in bagno con i braccetti girevoli, l'avevo attaccata lì. Funzionava, solo che era bassa. Era talmente bassa che non sentivo poco niente, mi sentivano proprio niente. Mentre Antonio Bombolo l'aveva messa sul palo del tetto, sul tetto della casa, quando era, dove era lui prima, a Sassari Vecchia, e copriva bene tutta Sassari e dintorni, certo, con tutta l'attenuazione di un'antenna da 1 metro, perché adesso qualcuno dice che sia un quarto d'onda, qualcuno dice che sia mezz'onda. Quello non lo so, perché bisognerebbe aprirla, romperla, cioè srotolare tutto il conduttore e vedere quanto è lungo effettivamente. Comunque in quell'antenna lì, sai perché richiedono un cavo di una lunghezza particolare? Perché il cavo fa da radiale, cioè fa da lui da piano di massa, il cavo stesso la calza esattamente, ecco. Capito. E quindi la stacco un po' dalla ringhiera e rimane solo attaccata sul tubo e rimane anche un po' più in alto e vediamo come va, se scende un altro pochettino il ROS oppure se devo accorciare o eventualmente allungare un po' il filo ancora, ne ho comunque il filo e anche da farne eventualmente un altro più lungo oppure proverò ad accorciarlo un poco alla volta e vedere finché vedo che scende, capito? Eia. Si può vedere. Io ho visto una foto su internet di quell'antenna lì, uno l'aveva aperta, aveva tolto la copertura, il tubo di plastica, aveva fatto vedere questo avvolgimento lungo, distanziato, no? Le spine erano un po' distanziate tra loro in modo da irradiare, no? Un po' effettivamente. Però c'è chi dice un quarto d'onda, mezz'onda, quello non l'ho mai capito. In teoria la mezz'onda non avrebbe bisogno di radiali e poi mezz'onda sarebbero 5,50 m di cavo. Non so se lì siano avvolti tanti, una tale misura di conduttore. Va bene, comunque, chissà la mia dove è finita, boh. L'avranno usata come bastone per la scopa magari qua, boh, non lo so. Anche se è troppo corto, perché non supera neanche il metro, capito? È grossa, perché evidentemente lì ha avvolto tutto il rame, capito? La spira di rame che sale, e poi c'è tutta questa plastica nera che la ricopre. Comunque, se dovesse riuscire a passare il rosso e proprio la quadra, provo a vedere, a tenere questa, se va meglio di quella della macchina, capito? Perlomeno è un qualcosa da balcone, capito? E non è un'antenna da macchina. Eia, anche se a dirla tutta, quanto è lunga l'antenna da macchina, ricordamelo? 1,68 qualcosa del genere. No, te lo dico perché gira, piuttosto che un'antenna super caricata da 1 metro, è un'antenna da 1,68 m, sì, c'è una minima carica alla base, però poi c'è un bello stilo lungo, potrebbe rendere gira di più l'antenna da macchina. Quelle sono prove che bisognerebbe fare mettendo le due antenne a turno nello stesso identico medesimo punto. Perché se no ce la sposti anche di pochi centimetri può cambiare, no? Provare una, poi l'altra, proprio lo stesso identico punto e vedere quale arriva meglio e quale anche riceve meglio, ecco. Io oggi ho fatto questa prova, perché stamattina ero impegnato con un altro, e stasera quando c'era un pochettino di sole sono uscito in terrazzo, prima mi avevo preparato il cavo, capito? Adesso ho provato e comunque il rosso è un pochettino alto, però forse riesco a farlo scendere. Se fosse così vedo un po' a fare anche questa prova che mi stai dicendo tu. Provo con quella quando abbasso tutto il rosso e poi provo con l'altra messa nello stesso punto, tolgo una e metto l'altra, capito, nello stesso palo. E così vedo quale va meglio delle due. In base alla, diciamo, alla resa di una o dell'altra, poi farò questa piccola scelta adesso, dai, per adesso mi devo accontentare, piccole prove, giusto perché capito, passa tempo, tutti i giorni sono a casa in ferie e rientro il 10 e quindi mi sto un po' interessato di queste cosettine qua quando ho un attimo di tempo, Marco. Eia. Va bene, oggi ancora non è entrato nessun altro, no, oggi è la Befana, quindi giorno festivo, dai, festivo. C'era anche un po' di sole a momenti, magari chi poteva è andato fuori così. Sì. Io stamane sono uscito e sono andato con mia figlia, ho fatto un'oretta di scuola guida con lei. Poi siamo rientrati a casa, lei era con il bambino che l'ho tenuto io, mentre gli ho guidato, cioè il bambino che l'avevo sotto i piedi. E niente, poi sono uscito un pochettino, dovevo andare da Tecnomart per prendermi delle prese che ho io, perché una si era rotta di quelle sciucco, capito, e quindi l'ho provata uguale identica, nera, e l'ho cambiata e ce l'avevo sotto la scrivania, adesso me l'ho messa nuova, quindi oggi mi stavo dedicando un po' a tutte queste cose, impianto elettrico, l'antenna, eccetera, un po' casalingo, dai. Visto che ero lì da Tecnomat ho acquistato anche delle fascette perché le avevo terminate di diverse misure, ce ne erano piccole, medie, grandi, nere, trasparenti, di diversi colori, ma le ho prese nere, capito, sono quelle che si utilizzano di più. Bien, va bene. Oggi ero un po' sonnolento, dopo pranzo mi è venuto questa sonnolenza un po' e quindi sono un po' riposato, eccetera. Sono senza parole. Io mi domani ho appuntamento presso alle 8:30 dal meccanico e gli devo lasciare la mia macchina, mi deve cambiare il termostato perché c'è la guarnizione, mi ha detto che si è fermata. Il termostato non funziona più, quindi non mi segnala il livello del liquido basso e quindi la settimana scorsa mi ha fatto la metà senso, mi ha rapportato il liquido e mi ha detto che c'era una microperdita lì dal termostato e me l'avrebbe coordinato e quindi avrei dovuto portare il test anche domani. Praticamente gliela lascio tutto il giorno perché lui mi sostituisce questo termostato, poi la tiene sotto controllo tutto il giorno per vedere se c'è qualche perdita eccetera, dopodiché me la devo consegnare o di sera oppure l'8 di questa mattinata, capito, in base a come ritiene lui di fare i controlli, così domani essendo senza macchina sono a casa e sistemo queste antenne, vediamo un pochettino quale delle due poi la vince, farò queste prove domani che un attimo di tempo, sperando che non ci sia qualche bufera di vento e di pioggia. Ok, va bene, ma sono un po' distratto, da non sono molto loquace, ancora mi devo svegliare. Non ti preoccupare, tanto mi guarda, io adesso mi accendo il computer qua, adesso mi sistemo due cosettine, lascio la radio accesa, rimango in ascolto, se magari si fa più tardi bussa già ti rispondo, magari entrerà anche qualcun altro e così inizia a provarla questa antenna anche qualcun altro, perché con te siamo talmente vicini, capito, che non va neanche a fare il controllo. Che antenna stai usando? Ciao Marco. Ciao Claudio. Che antenna stai usando, Carlo? Sei più basso? Sei liscio? Sto usando, allora, meno di 3 watt, circa 3 watt di portante muta. Non sto dicendo a te, sto dicendo a Carlo, tu sei, va bene. Ah no, adesso sono pochissimi watt, capisco, 2 watt qua mi segna, adesso aumento un pochettino, adesso l'ho portato a 5. Adesso 8 stai arrivando. Sta utilizzando una bazooka della Sirio, quella da un metro. Nel poggiolo, senza piano di massa, senza niente, diretta. Sì, esatto, Fla, guarda adesso il mio segnale si è aumentato. Sì, 6-8, modulato 8,5, va bene, poco fa di 7, 6, torno tra il 6 e il 7, adesso 6-8,5 modulato. E va bene, io ti sento perfettamente qua, arrivi a bomba, dai, qua... Radio sempre ottima, limpida e cristallina. Marco, non ne parliamo perché siamo uno di fronte all'altro, capito? Ci possiamo anche vedere dalla finestra se ti fidi. Stavo un po' provando, domani la sistemo un pochettino meglio, vedo se riesco a far scendere un altro po' il rosso, se ce l'ho un pochettino alto ancora. Se riesco a regolarlo a 1,2 va benissimo. Sì, quanto c'hai di rosso? Oscilla tra 1,8-2 in base al canale, capisco, ancora un po' altino. Perché qua la taratura te la dà la lunghezza del filo, capito? E quindi forse lo devo accorciare un altro pochettino. È 1,8 è troppo alto, anche se moduli come 1,3-1,4 va bene. 1,8 è troppo alto, cazzo, quindi regolalo un po'. No, sono entrato per quello per dirti che il segnale è buono qua, visto che Marco siete troppo vicini. Ok, dai, ci aggiorniamo dopo che vado a accendere il riscaldamento, se no ce la morirà al freddo qua. Già sono qua in radio. Sì, va bene, infatti neanche con Marco stavamo un po' facendo un attimo di bianco tutti e due, perché Marco ancora è, diciamo, si è appena svegliato e quindi era un po' lentino, capito? Ho detto riprenditi piano pianino e io mi faccio qualcosina, lascio acceso e grazie del controllo comunque Claudio, almeno so che sto uscendo. Ieri non mi faceva neanche modulare perché avevo il ROS troppo alto e va bene, già va bene così, ci sentiamo più tardi, grazie di nuovo, ciao Marco, anche a te, ci sentiamo più tardi. Ok, dai, bianco anche da parte mia e ci sentiamo magari più tardi. A dopo ragazzi. No, 1,8 è troppo alto. Abbassale ancora, lavoraci un po', anche se te le porti 1,4, 1,5 va bene. Diciamo che in linea di massima sei più tranquillo, ma 1,8 è troppo, quindi cerca di abbassarle un po'. Ok, ci sentiamo dopo. Benera, grazie, ciao, a dopo. capitanoncino di Gargamella, me, che ha brincato la muraglia. C'è nessuno nascosto. E me, Gianfranco la scimmia, farà un'idea dall'aipo, un gatto. E me, stanno giova, io, fa piazzata la radio, io. Tutti drummiti si diraggio compreso. Su 10.